Ehi, Pixel Rap qua, e Barde Blanca Studio qua. Ci siamo, e chi lo sa può parlare, chi non lo sa può imparare. Ehi, ha, ha, ha, Pixel Rap qua, e senti un po' man. Ehi, ehi, ti parlo di 22 anni fa, io non l'ho scelto, ma chissà chi mi ha mandato qua. Ormai questo non è importante, la mia vita come la tua, una frattante. Spesso si cresce in fretta, spesso si tarda a crescere, spesso si approfitta degli sbagli per rinascere, per provare a tutti che hai voltato pagina, per far cambiare idea alla gente di quel che si immagina. Ma per me la gente si può fottere, sono stufo di chi parla e parla sta a promettere. Gli amici miei si contano nelle mani, mani, nelle mie mani, mani sporche e vuote di money, money. Se mi giudichi senza conoscere, sbagli di brutto me, dalla tua mente stupida devi evadere. La società ti spreme, meglio combatterla assieme, anche se sono necessarie azioni estreme. E chi lo sa può parlare, chi ha vissuto sempre insieme a noi può affermare che non è facile, no, non è facile, sai, continuare la nostra vita senza passare guai. E chi lo sa può parlare, chi ha vissuto sempre insieme a noi può affermare che non è facile, no, non è facile, sai, continuare la nostra vita senza passare guai. Se lo sai puoi parlare, se non lo sai puoi imparare. Vivere la tua vita come se non ci fosse un limite torbide, parole confuse che a tratti ti sembrano gelide. Ma a volte è meglio non esprimersi, sai, se non vuoi fare guai, se non vuoi peggiorare situazioni che già sai sono difficili da sé. Dove non basta l'aiuto neanche se veniamo in tre, io continuo a camminare con tutti i miei mezzi, anche se vedo tutto buio, la luce solo a sprazzi. Saltando ogni ostacolo, non importa che grandezza abbia l'ostacolo, mi schiantesco dall'abitacolo. Vivo perché sta vita una guerra ed è troppo se sopravvivo, ma sto calmo e come sedativo. Scrivo, odiatemi, mi rende più forte, ma tengo tutto dentro come una cassaforte. E chi lo sa può parlare, chi ha vissuto sempre insieme a noi può affermare che non è facile, no, non è facile, sai, continuare la nostra vita senza passare guai. E chi lo sa può parlare, chi ha vissuto sempre insieme a noi può affermare che non è facile, no, non è facile, sai, continuare la nostra vita senza passare guai.